Fabrizio Intonti. Oggi vorrei cominciare parlandovi di una situazione che secondo me hanno provato molte persone, magari anche molti di voi che mi state ascoltando, perché secondo me molti di voi hanno avuto una passione giovanile per lo spettacolo e magari l'hanno anche messa alla prova recitando, ad esempio. Sto parlando dei tantissimi gruppi teatrali che ci sono nelle parrocchie, nelle associazioni giovanili, nelle scuole anche, e magari tanti di voi hanno avuto l'opportunità, l'occasione di salire sul palcoscenico e di provare quell'emozione, quella sensazione che dà l'avere un pubblico, e magari hanno anche pensato alcuni di voi di farlo per mestiere, perché no? Solo che arriva sempre il momento in cui devi scegliere: o pensi di avere abbastanza talento, rischi, ci provi, ti prendi tutta quell'adrenalina ma anche quella possibilità di rimanere per strada, oppure ti trovi un lavoro serio. Ed è quello che fanno, diciamo la verità, quasi tutti. Beh, io so, perché è quello di cui parleremo oggi, questa è la nostra tentazione, che ci sono delle persone che a un certo punto vedono risalire questa passione per lo spettacolo e si inventano un modo per farne un mestiere, per lavorare, per camparci, magari anche senza essere delle grandi stelle, senza diventare famosi. Se avete avuto una passione per lo spettacolo, se avete avuto voglia di tornare sul palcoscenico, ci avete provato, ci state pensando, avete un'idea per farlo, 800 24 00 24, chiamate e raccontatecelo. Secondo appuntamento, seconda puntata di Giro di Vita, una novità del palinsesto estivo di Radio 24. Io mi chiamo Achille Corea, insieme a me Fabrizio Intonti che mi accompagna in questo viaggio, e voi che ci state ascoltando. Io ringrazio tutti quelli che ci chiamano all'800 24 0024, quelli che si mettono in contatto con noi dalla nostra pagina su Facebook, che è facebook.com/girodivita, e ringrazio anche il primo ospite di oggi a interpretare la nostra tentazione, cioè Silvia Fattori, benvenuta. Pronto? Ciao, grazie per l'invito. Eccoci. Silvia, noi ti abbiamo chiamato perché anche tu avevi una passione, una grande passione che insomma hai continuato a coltivare nonostante il, aperte virgolette, lavoro serio. Vuoi dirci qual era questa passione? Sì, qual era e qual è e qual è diventata, insomma, e quale sarà sempre di più. La passione è quella per il teatro. Io ho fondato una compagnia teatrale che si chiama Gialli per Caso ed è specializzata in gialli interattivi. Noi facciamo format di cena con delitto, weekend con delitto, cioè noi portiamo in scena ogni settimana a Roma questi format di spettacoli, però organizziamo anche eventi aziendali in giallo in tutta Italia e poi anche eventi privati come il compleanno, l'odio al celibato. Senti, il matrimonio col delitto. Questo non è stato il... Scusami, questo non è stato il tuo primo lavoro però, cioè tu qua a un certo punto avevi preso una strada seria, come si dice. Ebbene sì, cioè io nella mia prima vita sono stata una persona seria, ho fatto prima la mia laurea, poi il master, ho lavorato per 10 anni nelle risorse umane, nella formazione manageriale, in società di consulenza, in varie aziende, insomma avevo un lavoro serio, no? Una carriera, era poi un brutto vizio devo dire, però poi per fortuna sono riuscita a smettere. Non credo, c'è un brutto vizio insomma che è condiviso da molte altre persone, però allora sì. Dici una cosa, hai smesso, come hai fatto? Cioè un giorno hai chiuso col tuo lavoro e ti sei buttata, lanciata nel buio di una carriera artistica, no? No, bello sarebbe. Qui il messaggio importante da dare è sicuramente che da questo tunnel del lavoro serio si può anche uscire, però ci vuole del tempo. Almeno per me, insomma, Gialli per Caso, la mia compagnia, è nata 7 anni fa, e inizialmente proprio per una passione che avevamo per il giallo, per il gioco, che insomma avevamo nutrito già molto tempo prima che queste cene con delitto poi diventassero di moda. E però abbiamo cominciato così, facendo delle cose nostre amatoriali, appunto per caso, da qui è nato appunto il nome della compagnia. E era un secondo lavoro? Spettacoli. Era un secondo lavoro comunque. Era un hobby, poi un secondo lavoro, poi un quasi primo lavoro e poi l'unica passione. Quanto tempo ci hai messo per farlo diventare da un hobby a un primo lavoro? Beh, ci ho messo appunto più di 6 anni, insomma, anche il crimine è un lavoro da professionisti, non dimentichiamo. Cioè, per sei anni tu hai fatto tutte e due le cose? Assolutamente sì. Di giorno la responsabile? Formatrice di giorno, attrice di sera, sì. Ecco, quindi una formattrice, diciamo, con un gioco di parole di cui vi chiedo veramente scusa, ma mi è scappato. Era un triste Silvia, passato, è stato faticoso. Intanto voglio sapere se qualcuno sul tuo lavoro serio sapeva di questa passione e come la prendeva, ecco. Sì, qualcuno sapeva, le specie sono sempre dappertutto, dico io, fortunatamente anche alcuni complici, e però ovviamente non era vista di buon grado, sicuramente mi aiutava molto in alcune sfere della mia professione, però era sempre un qualcosa che doveva rimanere appunto dietro le quinte. E insomma, un bel giorno, poi crescendo via via, non c'è rimasta più. E poi, scusami, il momento in cui veramente hai deciso di cambiare è stato perché non ce la facevi più a fare tutte e due le cose o perché sei riuscita a vivere solo della tua seconda vita, solo della tua passione? Sì, è andata proprio così, no? Nel senso, io potevo continuare tranquillamente, stress a parte ovviamente, e, però ho deciso che era arrivato sicuramente il momento, insomma, di maturità nella vita della compagnia, tale da potersi lanciare e fare questo come seconda vita, ecco. Ok, senti, noi adesso andiamo a indagare un pochino meglio gli aspetti più difficili di questa tua scelta. Prima ti facciamo sentire un pezzettino di un film che è veramente un grande classico del cinema. Papà, prima che tu dica qualcosa, non lasciami azzardare a discutere con me. È molto grave che tu abbia perso tempo con questa pazzia di salire su un palcoscenico. Per di più mi hai ingannato. Come potevi pensare di farla franca? Rispondimi. Ecco, questo è veramente un film che per chi vuole fare teatro, eccetera, è commovente, perché l'attimo fuggente, questo è il punto in cui il padre dice al figlio: non ti permettere di fare teatro. Poi lì succede una cosa drammatica che io sdrammatizzo sempre pensando che il padre ha detto a quel figlio: tu devi fare il medico, e quell'attore lì poi ha fatto Dottor House per anni, quindi è stato, diciamo, almeno profetico in questo. Silvia, cosa ti hanno detto? Non credo che sia andata così, ma cosa ti hanno detto i tuoi quando hai cominciato a dire, anche i tuoi amici, quelli che ti stavano intorno, a dire: io lascerò il lavoro per fare i gialli per caso? Ma io ricordo la reazione dei miei genitori, che erano ormai anche parzialmente rassegnati, mi hanno detto: teatro, anche questo adesso. Una malattia, diciamo. Sì, un'ultima provocazione, una malattia ad uno stadio terminale, credo, qualcosa di questo tipo. E mentre i miei amici più cinici mi hanno detto: ah, vuoi recitare? In che ristorante vuoi lavorare? Cioè, pensando, perché tutti gli attori, insomma, lavorano come camerieri. Poi sei stata profetica, sono stati profetici anche loro, perché tu effettivamente reciti, ma in questi ambiti, tipo nei ristoranti, no? Se non, esatto, nei locali, mentre le persone sono comodamente a cena, noi portiamo in scena il nostro giallo e loro partecipano, giocano, si divertono appunto da morire, no? Bene, è evidente che ti diverti, insomma, anche tu a fare questo, però ti devo chiedere, dal punto di vista, diciamo, della realizzazione anche professionale, economica, ci hai perso o ci hai guadagnato? Guadagnato, ma si sa che il crimine paga, no? Bene, quindi guadagni di più con questo lavoro che con quello serio. Me lo segno, se lo segneranno anche in molti che ci ascoltano. Noi ora ti chiediamo una cosa, cioè di contribuire a un nostro piccolo gioco, un nostro piccolo manualino che si chiama La valigia e la zavorra. La valigia e la zavorra. Allora, questa è la cosa che noi stiamo chiedendo un po' a tutti i nostri ospiti, quelli che rappresentano la tentazione per il nostro pubblico, cioè di dirci una cosa da portarsi dietro e una cosa da abbandonare nel giro di vita, nel tentativo di cambiare. Tu cosa consiglieresti di portare dietro, secondo la tua esperienza? Meno quello che è stato per me, a parte la profonda convinzione che il talento e il merito devono premiare sempre, no? E questo è fondamentale, però per me sarà soprattutto la voglia di fare le cose giocando, di fare spettacolo, di divertire, questo è fondamentale. E cosa bisogna buttare via? Ma io mi sono liberata con grande leggerezza finalmente di quella convinzione limitante che il lavoro era necessariamente un lavoro da dipendente, con un posto fisso per avere lo stipendio a fine mese, e questo era proprio la cosa da lasciare a casa. Sì. Ok, l'ultima cosa che ti chiedo, ma così per pura curiosità, tu so che in questo momento sei in Puglia, mi pare, per fare cosa? Sì, siamo venuti ad ammazzare qui in Puglia, domani faremo un compleanno col delitto E poi proseguiamo questa nostra criminale tournée fino in Veneto, dove avremo un matrimonio con delitto e uccideremo ovviamente la suocera. Indovinate chi sarà il mandante? Non lo voglio nemmeno immaginare. Lo spazio, allora, ovviamente. Sì. Ti ringraziamo Silvia Fattori, diamo anche il tuo sito che è gialliperkaso.it per chi volesse approfondire. Ti salutiamo, 800 24 00 24 per raccontarci se anche voi avete un modo per recuperare una vostra passione giovanile, e io intanto vorrei parlare di questa cosa con qualcuno che si intende un po' del settore. E se lo facessi io? Perché insomma, sentendo queste tentazioni, viene sempre la voglia di buttarsi, e quindi magari andiamo a parlare con qualcuno che segue tutto questo campo, questo appunto magari il mondo del teatro e degli spettacoli. Oggi siamo al telefono con Maria Rita Parisi di Lotto 5, una cooperativa che si occupa di organizzazione e comunicazione teatrale. Benvenuta Maria Rita. Benvenuti a voi, intanto saluti a tutti gli spettatori. Ok, dimmi un po', visto che tu ti occupi in una città come Roma, ma non solo, insomma anche in giro per l'Italia, di questo del settore teatrale, io vorrei sapere come può reagire insomma questo mondo, questo settore, di fronte a una persona che dopo aver avuto tutta una carriera in un altro mercato, magari più tra virgolette serio, prova a rientrare e a fare qualcosa nel mondo dello spettacolo. Guarda Achille, devo dirti che la diffidenza è tanta ed è anche naturale, perché comunque già è difficile per chi magari da adolescente comincia a fare teatro, fa scuole, fa una formazione interdiformazione molto lungo, e comunque l'offerta è tantissima, e i soldi anche, comunque la possibilità dei per i teatri di comprare spettacoli sono pochi, quindi figuriamoci fronte di persone che a 30, 40 anni insomma cambiano vita e decidono di imbarcarsi in questa avventura. È ovvio che bisogna inventarsi qualcosa di particolare. Ecco, noi abbiamo avuto un caso però di, come dire, un'invenzione, un andare a cercare un pezzo di mercato che magari non è proprio convenzionale. Ci sono altri casi del genere che tu sappia? Sì, ci sono altri casi del genere. Ci sono per esempio situazioni di drammi da salotto in cui nelle case private si organizzano degli spettacoli che usano come scenografia le stesse case e gli oggetti che mette a disposizione appunto la famiglia che abita in quella casa, così come delle storytelling fatte appunto nelle case che coinvolgono gli spettatori, e questo è l'altro elemento importante, cioè l'elemento interattivo comunque che infatti anche nel caso dei gialli per caso si ritrova. Non necessariamente poi deve esserci il coinvolgimento del pubblico, però è importante anche pensare di fare qualcosa di qualità che arrivi molto al pubblico, e spesso nella distribuzione il problema è quello, perché da una parte c'è il teatro commerciale, quindi un circuito che va avanti per grandi nomi. Sì, non, se non sei già famoso, no, magari per la televisione o per altro. Sì, esatto. E dall'altra è il teatro di ricerca, che magari essendo un teatro di nicchia, di un certo tipo, dove comunque ci sono anche poche risorse, poi sempre di meno ovviamente adesso come adesso sappiamo. Quindi è più difficile entrare. È più difficile entrare, si va avanti spesso con gli scambi, per cui se si ha un teatro si ha possibilità di vendere il proprio spettacolo, perché poi si ospita quella della compagnia che a loro volta ospita. Non è un paese per parvenu, mi verrebbe da dire, nel mondo dello spettacolo. Va bene, Maria Rita Parisi, io ti ringrazio per essere intervenuta. Io vorrei dare un po' di spazio anche a qualcuno che ci sta telefonando all'800 24 00 24. Credo che forse abbiamo Paolo in linea. Sentiamo un po', Paolo. Pronto? Sì, ciao. Paolo, dici tutto. Allora, dunque io ho 45 anni e sono pianista, suono pianoforte fin da piccolo, e ho sempre suonato gruppi jazz, gruppi swing, eccetera, ed è sempre stata una passione, ma poi diciamo che il mio lavoro consisteva nel lavorare nel settore informatico, soprattutto nell'ambito commerciale marketing. Quindi non, diciamo, il pianoforte era una cosa che riservavi al momento, diciamo, al ritorno a casa? Esattamente, era un hobby molto forte, ma sempre un hobby. E, nell'ambito delle mie attività hobbistiche, 5 anni fa, ho messo su uno dei tanti gruppi che ho messo su qui a Torino, che ha preso molto piede e che mi ha fatto decidere di lasciare, diciamo, il lavoro precedente e di seguire questo gruppo sia come pianista che come manager. Quindi poi ho aperto. Spiegami che vuol dire preso piede, cioè ci si campa, cioè con il lavoro di pianista, di manager di un gruppo. Sì, senz'altro. È ovvio che bisogna avere imprenditorialità, bisogna avere voglia di inventarsi, però questo gruppo poi ha avuto tutta una serie di... Diciamo che ho avuto la fortuna di avere insieme delle conoscenze musicali e delle conoscenze commerciali e di marketing, questo senz'altro mi ha aiutato, ma dopo 6 mesi questo gruppo era già ospite di Chiambretti. Ah, quindi insomma quello è... Poi è stata ospite recentemente di Arbor. Insomma, quindi siete riusciti insomma a diventare un nome. E quindi tu hai completamente abbandonato il settore informatico? Oh, sì, diciamo che lo utilizzo ai fini del marketing, del marketing della società che faccio, perché con questo gruppo, appunto, le Blue Dolls, sono riuscito a coniugare insomma, diciamo, le due cose. Grazie Paolo. 800 24 00 24 Giuseppe, credo, al telefono. Pronto? Sì, pronto. Giuseppe, tu invece sì. Mi scrivono, non hai voluto trasformare la passione in un lavoro? No, purtroppo no, nel senso che a un certo punto non me la sono sentita, perché sono pugliese ma vivo a Roma da 10 anni, ne ho 33 attualmente, non avevo la voglia, insomma, di rischiare l'incertezza per la certezza, perché lavoro ormai in un'impresa turistica, quindi la sto coltivando attualmente come hobby, come teatro amatoriale, anche se ne ho avuto la possibilità prima, ecco. Ma anche a livello un po' più professionale, anche di un certo livello. E ti ci svegli la notte oppure no? Ormai hai preso, diciamo, coscienza di questa cosa? Ti dirò, nel senso che all'inizio sì, un po' ci soffrivo, perché sai, quando covi una passione però sei costretto a reprimerla, ma anche costretto da te stesso per una paura, per la voglia, insomma, per la non voglia di sperimentarsi. All'inizio un po' sì, poi nel senso, dopo un certo punto ho cominciato, insomma, anche a riderci un po', a prenderla con ironia, però a coltivarla allo stesso tempo come passione, perché fondamentalmente mi rendevo conto che covarla addirittura come un lavoro non c'era più quella sensazione di gioco, quella sensazione di voglia di sperimentarsi, diventava un impegno, anche un mondo un po' chiuso, quindi... Era più uno stress che altro. Eh sì, esattamente, ma uno stress a livello mentale, ecco questo. Grazie Giuseppe di questa storia un po' controcorrente. Abbiamo un altro Paolo che lavora in banca ma suona il rock. Paolo, ci sei? Sì, eccomi qua, buonasera a tutti, grazie per l'ospitalità. Figurati, tu coniughi queste due cose che nell'immaginario collettivo sono proprio estreme, la banca e il rock. È vero, io con i miei amici abbiamo un gruppo, suoniamo insieme da 36 anni, sempre gli stessi. Siete i Pooh dei bancari. Cioè. Insomma, non è che apprezzi molto i Pooh, comunque. Vabbè, insomma, era per dire, è difficile trovare un gruppo che ha 36 anni di carriera. Siamo 5, di questi 5, 4 lavoriamo in banca. Non ci avete mai campato? No, fortunatamente no, devo dire, perché il genere di musica che facciamo, che è rock progressivo, sì. Noi siamo nati nel 1974, quindi in pieno periodo del rock prog, quando in Italia andavano fortissimo a PFM, Banco, Genesis, CS, e eccetera. Non avete mai cambiato? No, abbiamo sempre solo fatto musica nostra, ci viene così e quindi continuiamo anche adesso. E devo dire che... Per fortuna non abbiamo mai fatto i professionisti, perché difficilmente, molto difficilmente avremmo potuto campare di quel genere lì. Mantenere anche quel genere lì. Sì, va sì, bene. Infatti. Grazie, adesso quello che è bello è che avendo un'attività non normale, non dobbiamo vivere di quello, quindi... Non scendete nemmeno a compromessi, questo è insomma il senso. Va bene Paolo, noi siamo in chiusura, quindi ringrazio anche gli altri che non facciamo in tempo a sentire e vi faccio una grande domanda per chiudere, lo sapete che funziona così. Le grandi domande della seconda vita. Allora, noi in chiusura, dopo aver affrontato l'argomento del giorno, vi facciamo sempre questa grande domanda, che questa settimana è: qual è la cosa che vi fa venire voglia di cambiare vita? Da cosa vorreste fuggire? Io devo dire che le prime mail che sono arrivate a girodivita@radio24.it erano un po' scontate, se posso permettermi. È il lavoro, il troppo lavoro, la mancanza di tempo. Però due mi sono molto piaciute, perché Eleonora ha detto: vorrei cambiare vita perché sono da 4 anni che faccio tutti i giorni la stessa strada, tutti i giorni penso adesso lì c'è l'ingorgo e tutti i giorni lì c'è l'ingorgo. E poi mi è piaciuta anche quella di Massimo, che dice: vorrei fuggire dal mio collega che tutte le mattine mi fa vedere 10 foto del figlio che mangia la pappa, che accarezza il cane, che ride, che piange. Vabbè, e continuate, stupiteci, girodivita@radio24.it, diteci che cosa vi fa venire voglia di andare via, che cosa vi fa venire voglia di fare il vostro giro di vita e di cambiare. Siamo in chiusura, io vi invito a iscrivervi alla nostra pagina facebook.com/girodivita. Ringrazio Fabrizio Intonti, ringrazio Valerio Rocchetti, ci risentiamo domani su Radio 24. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.